Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e buona festa della liberazione a tutti, buon 25 aprile, eccoci qua con questa nuova puntata di Focus Economia in diretta anche oggi. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666, tanto per i vostri sms quanto per i messaggi su WhatsApp. Se vogliamo, prima ancora di andare a dirvi quali temi tratteremo oggi, rimanere in continuità con la notizia a quale vi abbiamo parlato nella breaking news e nel giornale radio, vi posso dire che la Roma sulle prospettive di un ingresso diretto in Champions League guadagna il 2,27% in borsa facendo un balzo proprio negli ultimi minuti, e la Juventus, anche se forse lo scudetto era scontato, guadagna l'1,6% sui mercati. Così riportiamo anche queste notizie che vi stiamo dando di taglio sportivo, appunto ai temi economici, ai temi che più strettamente ci riguardano. Tra l'altro di calcio anche parleremo in questa puntata di oggi di Focus Economia, lo faremo nella seconda parte della trasmissione dopo le 18. Ci occuperemo dell'Inter perché c'è il gruppo cinese, il colosso cinese che è uscito allo scoperto e con una nota ufficiale ha fatto sapere Suning, che è in trattative quantomeno per una partnership. Parleremo, come sempre facciamo in questi casi, con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore e ci faremo raccontare quanto appunto ci sia un'ipotesi di partnership e quanto invece non ci sia un'ipotesi di acquisto, e cercheremo di capirne un po' di più. Come vedete, i capitali stranieri continuano ad entrare sempre più spesso sul mercato delle squadre italiane, probabilmente anche questo è un bene perché è un po' uno scossone, insomma, no? Rende il calcio un po' più un'impresa. Dunque, di che cosa parleremo oggi? Beh, il tema centrale resta quello che potremmo definire in maniera larga quello europeo. Da una parte c'è la questione del Brennero, ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ne sta parlando in questi minuti al termine del vertice ad Hannover, nel quale il cosiddetto G5, così è stato chiamato, nel quale si è visto con Angela Merkel, con Barack Obama, con David Cameron e François Hollande, e hanno parlato evidentemente della situazione in Europa, della situazione dei rifugiati, che è strettamente collegata evidentemente alla chiusura dei confini, e anche di Libia. È un tema che resta al centro, quello del Brennero. Ieri abbiamo visto le proteste che sono sfociate anche in qualche scontro, un breve arresto per un militante italiano che protestava appunto contro la chiusura dei confini, tutto questo nel giorno nel quale la destra anti-immigrati raggiungeva il oltre 35% nel primo turno delle elezioni presidenziali, lasciando tra l'altro completamente fuori i cosiddetti partiti tradizionali, perché l'altro contendente sarà uno dei Verdi, sul quale probabilmente poi andranno a convergere il centro-sinistra e il centro-destra austriaco. Quindi il clima anti-immigrati e il clima che sembra favorire una chiusura dei confini in Europa sembra farsi evidentemente sempre più forte, e ripeto, lo dimostra anche quello che è successo nelle urne austriache, vedremo poi cosa succederà. Di certo c'è da aspettarsi un'escalation della tensione da parte dell'Austria da questo punto di vista, almeno nelle prossime settimane, almeno nelle settimane che precedono il voto. Di questo ne parleremo ovviamente dal punto di vista economico. C'è uno studio interessante della fondazione Bertelsmann, che è una fondazione tedesca, realizzato qualche settimana fa, che illustra quali sono i rischi economici di una chiusura dei confini all'interno dell'Europa, che è uno scenario che al momento, almeno nella sua completezza, non si palese. Dall'altra parte parleremo con chi opera quotidianamente, per così dire, intorno al Brennero. Nella fattispecie parleremo con gli industriali dell'Alto Adige, che ovviamente con tutto questo hanno a che fare quotidianamente. E poi ci occuperemo del tema più largo, appunto l'Europa, i suoi confini, l'avanzata delle destre, che cosa tutto questo rappresenta e a che cosa deve spingere l'Europa. E lo faremo, come spesso facciamo, con Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. Si diceva, parleremo di calcio, dell'Inter, di calcio dal punto di vista finanziario, e parleremo anche di un'altra vicenda tipicamente italiana, sempre più tipicamente italiana, pian piano che le cronache avanzano e ci fanno scoprire nuove cose, che è quella della Banca Popolare di Vicenza. Emergono dettagli in un pezzo scritto da Fabio Pavesi nelle scorse ore sul Sole 24 Ore di prestiti ricevuti anche dalla stessa casa vinicola Zonin nell'agosto del 2015, prestiti piuttosto consistenti, 18 milioni di euro, e poi altre tenute società agricole altri 24 milioni, lo stesso Zonin che si fa erogare un prestito personale da 2,4 milioni. Nel frattempo emerge anche il dettaglio di chi ci ha perso di più, di chi ci perderà di più da questa vicenda della Banca Popolare di Vicenza. Lo ricordiamo, la metà dei soci, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, aveva in carico le azioni a 63 euro e probabilmente si andrà ad una quotazione a 0,1 euro, che è il prezzo che pagherà il fondo Atlante. Ci sono ovviamente su questo storie personali, cioè singoli risparmiatori, anche magari non particolarmente danarosi, che hanno perso praticamente tutto. Raccontava nei giorni scorsi il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ma chi vive in provincia, chi conosce le storie delle banche popolari, sa che questa è una cosa abbastanza frequente, che se c'era gente alla quale chiedevi ma tu hai soldi investiti in titoli azionari, e ti rispondeva di no, poi però se gli dicevi hai titoli della Popolare di Vicenza, ti rispondeva di sì. Quindi era considerato un vero e proprio investimento sicuro, e questo rappresenta un problema anche dal punto di vista sociale, se vogliamo, come ci raccontava lo stesso Variati. Dall'altra parte poi ci sono quelli che invece ci hanno perso parecchi soldi e sono anche imprenditori, e non solo, anche figure di spicco. Di tutto questo parleremo nella seconda parte della trasmissione. Come si diceva, apriremo parlando di Brennero e di Europa e ovviamente di mercati. Vi ho detto come stanno andando la Juventus e la Roma, vi dico come va in generale la borsa, e va male: meno 1,8% per il FTSE MIB, meno 1,61% per il FTSE OSHARE, in un quadro che è migliore per le altre piazze finanziarie europee, perché Francoforte cede lo 0,8%, Parigi lo 0,65%, in una giornata che era già iniziata male, con Tokyo in calo dello 0,76%. Per quanto riguarda l'America, meno 0,64% per lo Standard & Poor's 500 e meno 0,78% per il Dow Jones. Tra i titoli positivi in Italia, Saipem più 1,09%, Campari più 0,94%, Finmeccanica più 0,46%, Atlantia più 0,33%, in fondo al listino molti bancari: Unicredit meno 5,7%, Ubibanca meno 5,4%, Banco Popolare meno 4,4%, Popolare Emilia Romagna meno 3,6%, e giù anche Telecom Italia del 4,08%. Come sempre, poi approfondiremo con i colleghi di Radio Corriere Il Sole 24 Ore le notizie in breve di oggi. Iniziando dalle materie prime, l'oro fa segnare un più 0,4% a $1,233 l'oncia, il petrolio in lieve calo a meno 0,1% a $43,6 al barile. Questa era la quotazione di questa mattina, vediamo se recuperiamo quella di adesso. Beh, il calo è decisamente più accentuato. Il WTI con consegna a giugno, quello quotato a New York, cede l'1,12% a $43,2 al barile. Il Brent, sempre consegna a giugno, quello del Mare del Nord, quotato a Londra, meno 0,42% a $44,9 al barile. Sul fronte del petrolio ci sono delle dichiarazioni interessanti che arrivano oggi dal vice principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. dice che l'Arabia Saudita lavora alla quotazione del 5% del suo colosso petrolifero, quello che gestisce il greggio dell'Arabia Saudita, che è Aramco. Una quotazione appunto del 5%, un'azienda che potrebbe valere 2.000 miliardi di dollari secondo i sauditi. Sulla valutazione però, aggiunge Mohammed bin Salman, si sta ancora lavorando. Qual è il tentativo dei sauditi? Beh, tenete presente questo: il Fondo Monetario Internazionale oggi ha tagliato la sua stima di crescita per i paesi del Golfo proprio a causa dell'andamento del prezzo del greggio. Quest'anno il PIL della regione rallenterà all'1,8% contro il 2,75% stimato ad ottobre scorso. È un taglio di un punto percentuale sulle stime di crescita. L'obiettivo dei sauditi è dunque cercare di ridurre il più possibile questa dipendenza che il paese ha, anche se è inevitabile che rimanga come fronte di esportazione principale, però di ridurre progressivamente questa dipendenza che ha dal petrolio. C'è un piano di trasformazione dell'economia approvato oggi che, con massicci investimenti e riforme nei prossimi 15 anni, dovrebbe appunto avviare il paese verso un'economia più matura. Questo per quanto riguarda il petrolio. Sempre dall'estero, allora, abbiamo delle notizie innanzitutto che arrivano dagli Stati Uniti, ed è un punto interessante, questo è uno spunto interessante. Goldman Sachs, e sapete benissimo chi è Goldman Sachs, apre le sue porte, per così dire, ai cittadini comuni. Ha deciso di offrire per la prima volta nella sua storia ultracentenaria conti deposito online ai piccoli risparmiatori. Ha lanciato la piattaforma online gsbank.com e per aprire un conto basterà $1. La decisione di rivolgersi al mercato di massa, spiega il Financial Times, arriva in un momento nel quale la banca è sotto pressione per trovare nuove forme di finanziamento. Insomma, ci sono delle difficoltà e Goldman Sachs pensa di affrontarle anche in questo modo. Nel frattempo, da questa parte dell'oceano, ma dall'altra parte della Manica, c'è un problema grosso per BHS. È una storica catena di vendita, di rivendita al dettaglio americana, britannica, che andrà in amministrazione controllata. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi dai vertici aziendali e rischiano il posto di lavoro 11.000 dipendenti. I grandi magazzini BHS, un marchio con 88 anni di vita nel Regno Unito, per il momento resta aperto, ma il futuro è chiaramente piuttosto cupo. Il problema è in un buco previdenziale stimato nei conti aziendali in 571 milioni di sterline, 60 dei quali avrebbero dovuto essere versati subito per evitare l'epilogo di queste ore. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Intanto vi dico che una parte del calo dei mercati che registriamo oggi è dovuto all'andamento dell'indice IFO, che misura la fiducia delle imprese in Germania, che è sceso ad aprile a 106,6 punti dai 106,7 di marzo. Si tratta di una flessione minima, ma gli analisti si attendevano qualcosa di meglio. E alla settimana dei mercati, in attesa delle mosse di Federal Reserve e Bank of Japan, sono dedicati 100 secondi di Radio 24 e Il Sole 24 Ore, che vanno in onda, ve lo ricordiamo sempre, anche su Radio Dimensione e Suono. Oggi sono a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. In un mondo che si reinventa, Engie sviluppa soluzioni nuove per un miglior consumo dell'energia. Engie, elettricità, gas, efficienza energetica e servizi. Vi presenta... I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

Ieri, come sapete, ci sono stati scontri al confine, o quantomeno una manifestazione carica di tensione. E qua ovviamente tutti gli operatori economici stanno attendendo, perché per darvi la misura, dal Brennero transitano ogni anno 4 milioni di tonnellate di merci, 2 milioni di camion e 8 milioni di auto. Una quantità di merci enorme, dunque. La fondazione tedesca Bertelsmann ha commissionato uno studio sugli effetti economici che avrebbe l'abbandono dell'accordo di Schengen. È ovviamente un quadro globale, ci sono anche dettagli sui singoli paesi, se volete poi li trovate sul sito di Bertelsmann. Abbiamo fatto una breve chiacchierata con Christian Bluth, che è un ricercatore di Bertelsmann, e ci racconta un po' anche su che cosa si sono basati. Allora, quello che abbiamo fatto è di computare l'effetto di un alzamento dei prezzi per l'Europa in generale e per i paesi membri. I controlli ai frontieri ovviamente fanno salire i prezzi per i beni ed anche per i prezzi per tutti questi beni che sono in magazzino. Abbiamo compiuto due scenari, uno diciamo conservativo, che i prezzi salono di 1%, e un altro scenario pessimista con 3%. I costi in generale sono per l'Europa tra 40-60 miliardi di euro nel scenario conservativo e 1,4 milioni di euro nel scenario pessimista. E questo è il quadro. Costi che verrebbero distribuiti, immagino, un po' su tutto il sistema. Cioè, quando voi parlate di costi evidentemente tanto per gli stati quanto per le imprese e così via. Allora, l'effetto è quello che ovviamente le imprese devono fanno salire i prezzi perché la produzione diventa più caro. E questo ha anche effetti negativi per i consumatori, che ovviamente i prezzi sono più alti, quindi la domanda in generale sta abbassando. Anche ovviamente gli esporti diventano più cari e anche questi sono abbassati, e quindi c'è anche un effetto negativo sul PIL che proviene di questo effetto. Pensate che ci sono calcoli peggiori. Secondo Thomas Baumgartner, il presidente nazionale di Anita, che è l'associazione di imprenditori dell'autotrasporto aderente a Confindustria, un camion fermo costa un'azienda 60 euro l'ora. Si tratta di aumenti che le aziende farebbero ricadere sul cliente. Possiamo supporre un innalzamento del 10% dei prezzi al consumo, con relativi contraccolpi sulle capacità di export dell'Italia. Chi è molto preoccupato, tra le persone molto preoccupate, c'è Stefan Pan, che è presidente Asso Imprenditori Trentino Alto Adige, presidente degli imprenditori Alto Atesini. Buongiorno e benvenuto, Pan. Buongiorno. Anzi, buongiorno. Buonasera, per essere sì, esatti. Sento una cosa, voi avete fatto anche un comunicato stampa nei giorni scorsi, lei insieme ai colleghi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, perché questa cosa vi spaventa molto, mi sembra di capire. Sì, spaventa molto, è un momento storico. Il Brennero è come l'arteria del corpo europeo. Se tranciamo l'arteria c'è un infarto, con delle ricadute che sono ancora più alte di quelle che abbiamo sentito prima. Rischiamo il collasso, e questo dovuto a dei timori, alle paure che nascono in certi stati. La paura è sempre stata una pessima consigliera. Se guardiamo due numeri, l'Europa oggi sono 500 milioni, sono 9% della popolazione mondiale, che riesce a generare la metà delle prestazioni sociali del mondo. Quindi un modello che funziona, perché non ci sono barriere, non ci sono frontiere, perché è un progetto basato sull'apertura. Adesso incominciamo a chiudere le barriere, a chiudere il Brennero, avremo un'implosione, con degli effetti catastrofici, non solo a livello economico ma anche a livello culturale. Perdiamo un progetto di pace e abbiamo il compito da europeisti convinti di lanciare un nuovo progetto. Lo sta facendo Renzi, con l'idea di raggruppare i 28 e cominciare a fare un piano Marshall nel Medio Oriente. Lo sta lanciando Vincenzo Boccia, il presidente designato, col suo programma che ha presentato di Confindustria, la Confindustria Nuova, che parte proprio dall'Europa. Quindi siamo a un momento cruciale, importantissimo, dove non dobbiamo avere timore, ma dobbiamo avere la forza di uscire e spiegare molto bene che l'apertura è la vera forza, chiudersi in se stessi, trancia i ponti e ci riporterebbe alla povertà. Senta, Pan, tra l'altro è molto difficile non considerare le aree di confine, come dire, da una parte e dall'altra, no? Nella fattispecie l'Alto Adige e il Sud Tirolo, come in realtà delle aree sostanzialmente integrate dal punto di vista economico, soprattutto in Europa, no? Integratissime, siamo dei laboratori di convivenza, quei laboratori che riescono a rafforzare i punti forti di ambedue le culture, sono il meglio della cultura per esperienza vissuta, quelle che riescono a creare innovazione, creare export, apertura al mondo. Quindi serve questa, ancora più di prima, questa relazione tra stati nazionali e quelle zone limitrofe che hanno la funzione di essere delle giunture europee per far correre ancora di più la macchina europea. Sì, delle sorta di cerniere, no? all'interno sì, dell'Europa. Senta una cosa, voi vi siete riusciti a fare un'idea, glielo dico anche come da presidente degli imprenditori, no? Avrà un po' di polso evidentemente dei suoi associati, vi siete fatti un'idea dei costi che dovrebbe sostenere quantomeno la sua area e soprattutto se mi dà un'idea della sensazione che circola tra i suoi associati? Molto preoccupati, preoccupatissimi, perché la situazione di questi che si sta evolvendo in questi giorni viene vissuta come una questione storica, un libro di storia in cui le pagine sono aperte. I costi economici sono altissimi, c'è uno studio fatto dalla Confindustria francese che è simile a quello di Bertelsmann, che parte da nel miglior dei casi di 130 miliardi di costi che vengono che hanno ricaduta su tutti i territori, il nostro territorio prima di tutti perché diventa irraggiungibile, ci sarà un collasso del turismo, un collasso dei trasporti con ricadute nazionali, quindi degli elementi economici molto forti, ma ancora più forti, ancora più profondi sono le ricadute a livello mentale, le frontiere che abbiamo in testa che incominciamo ad avere, a vedere, sono quelle che siamo riusciti ad abbattere negli ultimi 70 anni e dobbiamo mantenere assolutamente un'Europa senza frontiere, forte, capace di dialogare con i punti geopolitici in crisi come la Siria, come la Libia, e se l'Unione fa la forza, adesso ancora di più di prima, e dobbiamo far vedere che abbiamo il coraggio di farlo. Allora io nel ringraziarla dico all'ascoltatore che ci dice ricaricare i costi sull'Austria, e come fai a ricaricare i costi sull'Austria? Insomma è tecnicamente una cosa impossibile, anche perché sono costi evidentemente di altro tipo. Cosa fa il trasportatore o l'azienda che deve mandare un camion attraverso il Brennero? Che cosa fa? Dice ho dovuto sostenere un 10% dei costi in più e lo manda al governo tedesco. È un po', mi sembra un filino impraticabile. Nel frattempo vi posso dire che l'Austria ha appena annunciato pochi istanti fa per mercoledì 27 aprile una conferenza stampa al valico italo-austriaco per illustrare, aperte virgolette, il management di controllo di confine, e quindi sapremo sostanzialmente nella giornata di mercoledì, posto che già si parla di confine in un luogo nel quale il confine non c'era più, capiremo come effettivamente si svolgeranno i controlli e quindi poi l'impatto dal punto di vista pratico che questi controlli avranno appunto anche sull'autotrasporto e su chi deve trasportare merci e su chi deve lavorare passando da una parte all'altra del confine. Nel frattempo grazie a Stefan Pan che è presidente degli imprenditori Alto Atesini, e le auguro una buona serata e un buon 25 aprile, una buona festa della liberazione. Noi adesso ci fermiamo, c'è il meteo, ci ritroviamo subito dopo, sentiremo tra l'altro la voce di Obama che di muri ha parlato, la voce del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e parleremo più in generale di Europa, oltre che ovviamente di borsa. Tra poco. Logisticamente, Modul Block. Scarica l'app Modul Block e vivi l'esperienza in realtà aumentata. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp. Qualche perplessità e anche qualche notazione interessante dagli ascoltatori. Scrive qualcuno che forse opera nel settore o forse no, è semplicemente la prima cosa che gli è venuta in mente, giustamente, se chiudono il Brenner o se mettono questa barriera, questo confine. Pensi solo alla rischedulazione della catena del freddo, cioè è solamente appunto, no? Le cose fresche devono andare da una parte all'altra del confine, che costi avrebbe una cosa di questo genere? E qualche perplessità dagli ascoltatori, dicevo prima, qualcuno diceva ma dovremmo farla pagare all'Austria questa cosa qua, insomma l'impatto che questo avrà sulla nostra economia e sull'economia europea. Io dico beh, è un po' difficile farla pagare all'Austria, e qualche ascoltatore dice ma insomma ci rompono le scatole per le cozze, non riescono, per la dimensione delle cozze non riescono a far pagare una multa all'Austria. Non so come andrà a finire. Tra un attimo ne parleremo con Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore, che saluto. Buonasera Adriana, benvenuta. Buonasera. Allora, tra un attimo andremo a tutto questo, perché allarghiamo il tema un po' all'Europa e anche al voto che c'è stato in Austria, che ha portato appunto la destra anti-immigrati e favorevole, ampiamente favorevole alla chiusura dei confini, oltre il 35% nel primo turno delle presidenziali. Poi vedremo come andrà il secondo turno, certo il segnale politico è fortissimo. E però sentiamo qualche voce a partire proprio dal tema del Brennero, e ascoltiamo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che poco fa è intervenuto in conferenza stampa dopo questo vertice che è stato chiamato G5 insieme a Merkel, Hollande, Cameron e Obama. Hanno parlato essenzialmente di Libia e di rifugiati. In conferenza stampa dopo il Premier ha parlato anche del Brennero, sentiamo. Non c'è alcun elemento, alcuno, che giustifichi la chiusura del Brennero, punto. E quindi noi pensiamo che le autorità austriache non potranno fare altro che rispettare la normativa europea, e che se questo non fosse saranno le istituzioni europee a prendere le conseguenze necessarie. Perché il Brennero è un simbolo, perché il Brennero è uno strumento, un luogo di lavoro per tante donne e uomini. La Germania, l'Austria e soprattutto il nord-est italiano sono collegatissimi. In alcuni aspetti potremmo parlare di un unicum economico come area regione tra la zona della Germania meridionale, l'Austria e il nord-est italiano. Se ci fate caso ci sono delle realtà, delle filiere intere che lavorano insieme, e quindi il Brennero è uno strumento, è un luogo di transito fondamentale. Tra l'altro la stessa Austria oggi ha ripristinato i controlli alla frontiera con l'Ungheria, Ungheria della quale conosciamo la collocazione politica, quindi non credo che si siano particolarmente dispiaciuti. Comunque la polizia controlla i veicoli sui principali punti di accesso, i militari pattugliano altri tratti di confine, non è stato specificato per quanto dureranno i controlli. La notizia, la ribadisco per chi non l'avesse sentita di poco fa, è che appunto l'Austria ha annunciato per mercoledì la conferenza stampa al valico del Brennero per illustrare il management di controllo di confine, confine che dunque è tornato ad essere tale. Allora, Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore, Adriana, io ti chiedo innanzitutto un commento generale su quello che sta succedendo, e concentrerei per il momento l'attenzione proprio sull'Austria, perché da una parte abbiamo il risultato elettorale di ieri, dall'altra l'accelerazione, forse anche quella in chiave elettorale, delle procedure di controllo al valico di confine. Sì, io direi che questa elezione chiude un cerchio che era cominciato nel 2000, non ci dimentichiamo, che a introdurre l'elemento dell'estremismo di destra nel panorama politico europeo fu proprio Jörg Haider nel 2000, quindi un austriaco che poi entrò nella coalizione di governo con i popolari e scatenò le sanzioni europee proprio per stigmatizzare questo fenomeno, che invece purtroppo è diventato norma ai nostri giorni. L'Austria con un futuro presidente della Repubblica di estrema destra è la conseguenza di quello che successe allora, ed è anche, se si vuole, il simbolo e il sintomo del disagio con cui oggi l'Europa non vive solo, diciamo, l'emergenza rifugiati, ma se si vuole un po' tutti i contraccolpi della stessa europeizzazione, della maggiore integrazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, e contro la quale si reagisce con il nazionalismo, con il protezionismo, con la voglia di chiudere all'altro. Il Brennero è una di queste vittime, io direi che è una vittima predestinata, perché io penso che avendo l'estrema destra ha avuto il 36,4% dei voti al primo turno e distanziando di oltre 16 punti il secondo candidato, che è un verde, io temo che alla fine sarà l'estrema destra ad avere la presidenza della Repubblica, e proprio questo porterà naturalmente alla chiusura del Brennero, perlomeno al loro tentativo di chiuderlo. Dopodiché la normativa europea non lo consente, ma bisognerà vedere cosa faranno gli stati membri, perché appunto ricordavo il 2000 e Haider. Adriana, perdonami, in questi mesi abbiamo visto una tendenza ad ignorare la normativa europea su questo fronte abbastanza forte, insomma, non penso che si faranno dei problemi da questo punto di vista, no? No, io credo che col Brennero la questione sia un po' diversa, nel senso che finora si poteva parlare di un'emergenza rifugiati, nel senso che in effetti 1,5 milioni di rifugiati che sono arrivati nel 2015 non avrebbero dovuto, diciamo, inficiare l'ordine di Schengen, ma di fatto era una obiettiva emergenza. Ma in questo caso il Brennero viene chiuso senza una ragione, nel senso che non c'è nessuna emergenza per ora. Se ci sarà, se ne potrà discutere, perché Schengen prevede che di fronte a fatti eccezionali si possa temporaneamente chiudere le frontiere. Ma in questo caso non è successo. Ci sono 9 paesi che oggi, oltre all'Austria, chiudono le frontiere, e però potranno, proprio perché c'è la temporaneità dei controlli, a maggio si dovrà decidere che cosa fare di questi controlli, se eventualmente prorogarli oppure sospenderli, come qualcuno già diceva, per esempio, proprio perché con l'accordo con la Turchia apparentemente i flussi sono molto calati. L'Austria, ed è qui dove viola la normativa europea, invece crea un muro preventivo, cioè lei dice: siccome arriveranno i rifugiati in Italia dalla Libia, eccetera, eccetera, noi cominciamo a chiudere il muro. E allora questo non è lecito, ma dicevo, bisogna vedere, perché le regole questo non lo consentono, a meno che non provino che ci sono dei flussi eccezionali. E quindi in questo caso ci dovrebbe essere un alto là europeo, prima della Commissione e poi dei Paesi membri, ed è lì che bisognerà un po' misurare quello che succede veramente in Europa. Io temo che l'alto là non sarà, diciamo così, ultimativo, perché in fondo quest'Austria protezionista oggi non solo interpreta un po' il comune sentire del nord Europa, ma fa comodo al nord che non vuole rischiare dei flussi. Quindi ci sarà un bel dilemma tra, come dire, la violazione della legge europea e la tutela di una presunta sicurezza garantita da una chiusura delle frontiere, ma l'Italia rischia di essere nell'occhio di un ciclone, e non a caso il governo Renzi ha presentato l'idea del Migration Compact. Sì. Cioè Adriana, aspetta un attimo, ti interrompo, voglio tornare da te, però prima, se no andiamo troppo in ritardo con il traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo dopo l'aggiornamento sul traffico, particolarmente importante in queste ore di rientro dal fine settimana lungo del 25 aprile. Allora, Adriana Ceretelli, per chiudere, mi sembra di capire da quello che ci dici che tu consideri questa questione del Brennero un vero punto di svolta anche per l'Europa. Sì, assolutamente sì, perché se dovesse passare la chiusura del Brennero in assenza di flussi straordinari di rifugiati, Questo sarebbe veramente, come dire, una sorta di decreto di morte dell'ordine di Schengen, cioè della libera circolazione delle persone e delle merci. Allora, io voglio sperare che questo non accada, ma noto per esempio che la Germania della Merkel, che è stata lungimirante, per certi versi generosa nell'aprire i flussi, è stata la prima a fare un patto con Erdogan, cioè con la Turchia di Erdogan, che è un governo illiberale, repressivo, 2000 giornalisti incarcerati e processati perché non rispettano sufficientemente il loro presidente. Ecco, la Germania, e poi il processo contro il comico tedesco che l'ha, sia pur pesantemente, preso in giro con il consenso della Merkel, questo processo. Ecco, tutto questo ci dice che oggi l'Europa è molto debole, è debole con le proprie regole ed è debole con i propri interlocutori esterni, perché non sa che pesci pigliare, perché si sente minacciata da questi movimenti estremisti, perché deve gestire economicamente un problema che non sa come gestire, perché non ha neanche le strutture per accogliere tutti questi rifugiati, penso in particolare alla Germania, non agli altri paesi. Quindi è una Europa molto più possibilista, che potrebbe quindi, io temo, fare, cioè minimizzare un vulnus simile alla legislazione europea. Purtroppo l'Europa è opportunista e molto spesso in passato, quando le ha fatto comodo, ha ignorato le regole. Per questo penso che l'Italia corra un rischio serissimo e per questo ripeto, secondo me il governo Renzi ha fatto benissimo a sollevare il problema, ma credo che se, penso che succederà, vincerà appunto il candidato dell'estrema destra in Austria, la nostra vita diventerà molto più difficile nell'ambito dell'ordine di Schengen, proprio perché l'Austria diventerà ancora più rigida di quello che si è dimostrato. Io ti ringrazio, grazie ad Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore, e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e chiaramente anche nei prossimi mesi. Adesso è il momento della borsa. Dunque, mercati in calo, FTSE MIB meno 1.5%, meno 1.33% il FTSE All Share. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. E mi sembra che su tutto questo abbia pesato, in un quadro complessivamente negativo anche per il resto d'Europa, Francoforte meno 0.76%, Parigi giù di 0.5%, Londra dello 0.78%, in un quadro di questo tipo, e giù anche l'America dello 0.6%, sia sullo Standard & Poor's 500 che sul Dow Jones, su Milano e sulla performance più negativa rispetto agli altri, peggiore rispetto agli altri, mi sembra che pesino le banche, no? Sì, sicuramente una giornata non positiva complessivamente per le banche, meno 2% in Europa, ma meno 4% quasi l'indice delle banche italiane. Questo perché Moody's, l'agenzia di rating americana, si è espressa in maniera un po' allarmistica, diciamo, sugli effetti che la partecipazione al ormai noto fondo Atlante per intervenire nelle ricapitalizzazioni delle banche e nella gestione dei crediti di sofferenza, negli effetti che la partecipazione dei principali istituti a questo fondo potranno avere per gli istituti stessi, per i loro requisiti patrimoniali, a cominciare da Unicredit, che non a caso è stata la peggiore, ha perso il 5,3%, certo, ma seguita da UbiBanca, da Mediobanca, che peraltro non partecipa al fondo Atlante, e da molte popolari. Sì, UbiBanca meno 5,11%, Mediobanca meno 4,11%, Banco Popolare meno 3,9%, Popolare Emilia Romagna meno 3,45%, Intesa San Paolo meno 2,4%, Monte dei Paschi meno 2,9%. Questo il quadro per quanto riguarda le banche italiane, manca la Popolare di Milano meno 1,8%. Questo il quadro complessivo per quanto riguarda i bancari. Che altro vedi da segnalare? Io direi sicuramente Telecom Italia tra i negativi, no? Sì, è una fase di incertezza forte per Telecom Italia, che non è nuova a questi movimenti bruschi di correzione. Siamo sotto a 0,9 euro, siamo a 0,85, prevale un vuoto di certezze per quanto riguarda il mercato, perché la strategia del nuovo amministratore delegato Cattaneo non è ancora chiara. Ci sarà un CDA il 5 maggio sulla vendita delle torri, se è ritornato in pista la questione della vendita o meno, insomma, di una nuova strategia per il Brasile. Tutto questo in un contesto in cui le telecom europee sono in una fase di debolezza, perché gli ultimi progetti di fusione allo studio non stanno trovando il via libera dell'Unione Europea. Saipem in 10 secondi, più 1,6% il titolo migliore sul listino. Beh, ci sono state indiscrezioni su nuovi contratti in arrivo nell'Europa dell'Est, e questo ha permesso a Saipem di essere in controtendenza rispetto a un petrolio che nel pomeriggio è arrivato a perdere anche l'1%. Infine CNH meno 3,42%, qua c'è anche lo stacco della cedola, no? Vale un 2% circa di questo calo. Esattamente, uno stacco della cedola del 2%, 13 centesimi per azione, che non spiega però, non basta spiegare il meno 3,4% di oggi, anche se va detto che Saipem viene da un più 13% CNH, nell'ultimo periodo. Allora Andrea, io devo chiudere e ti ringrazio, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, parliamo dell'Inter che cerca nuovi azionisti e poi ancora della Pop Vicenza. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti alla seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Avete sentito in GR24 il servizio di Carlo Genta che ci parla degli ultimi sviluppi di campionato, della Juventus ormai campione, di un Napoli che deve difendere con le unghie e coi denti il secondo posto, non ve ne parliamo a caso. Diciamo che il mercato sembra forse scommettere, almeno per il momento da quel che vediamo, un po' più sulla Roma, visto che subito dopo la vittoria col Napoli ha avuto un balzo in borsa e chiude tra i 5 titoli migliori, il quinto titolo migliore sul listino oggi, guadagna un 3,5%. Chissà se i tifosi della Roma interpreteranno questo come un secondo posto probabile. Scongiuri comunque per loro, così come per i napoletani, evidentemente. Non parliamo a caso di questo perché vogliamo occuparci di calcio e finanza, ogni tanto lo facciamo. Ebbene, il tema sono le milanesi. E l'interesse asiatico per le milanesi, a partire dalla notizia che è arrivata questa mattina, una notizia che è affidata ad un comunicato stampa. Il colosso cinese Suning annuncia un interesse ad una cooperazione strategica con l'Inter. Le due parti stanno esplorando approfonditamente le possibilità di un'ampia partnership, si legge nel comunicato, per quel che riguarda l'ambito calcistico e lo sviluppo del calcio in Cina, e non escludono la possibilità di investimenti reciproci. Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Eccomi, buonasera a tutti. Siamo alla vigilia di un nuovo passaggio di proprietà dell'Inter, secondo te? Più che di un passaggio di proprietà in quanto tale, diciamo di una ulteriore cessione del pacchetto azionario dell'Inter, che in questo momento è diviso tra il Tycoon indonesiano Eric Toil al 70% e Massimo Moratti che è al 29,5%, poi c'è un piccolo zoccolo duro, insomma, di piccoli investitori, chiamiamoli così. Apro velocemente una parentesi su quel dato di borsa sulla Roma: secondo, terzo posto significa 50 milioni circa assicurati nelle casse della società che ci arriverà, anche perché le ultime due squadre italiane che sono arrivate al terzo posto andando poi a giocare il preliminare Napoli e Lazio sono uscite, e quest'anno è ancora più pericoloso perché c'è la possibilità di incontrare dei colossi inglesi che sono al quarto posto, visto la performance dell'Leicester, e quindi si potrebbe incontrare, non so, l'Arsenal o il Manchester City. Quindi capirà, insomma, che è ancora più decisivo per Napoli o Roma. E certo, anche economicamente, appunto, la differenza di 50 milioni di euro, quindi appunto, eccoci qua, più 3,56%, una giustissima parentesi. Insomma, ci dicevi di... Quindi siamo in questa fase in cui l'Inter ha tentato di applicare un piano di sviluppo commerciale basato in particolare poi sulla valorizzazione del brand in Asia, non solo in Indonesia ma in generale in tutta l'Asia. In questi due anni i risultati sportivi non hanno supportato questo piano commerciale, e quindi c'è stato bisogno da un lato da parte di Toyota di mettere soldi, dall'altro di rinegoziare quello che era il debito di 230 milioni, che è stato fatto due anni fa con Goldman Sachs. Si è arrivati al punto in cui si doveva prendere una decisione. La decisione è stata quella, condivisa da Goldman Sachs, di andare a cercare investitori in Asia, in particolare in Cina, dove c'è in questo momento un interesse enorme per il calcio, non solo per quello nazionale ma anche per quello internazionale, dettato dal governo di Pechino, che proprio due settimane fa ha approvato con una commissione che di solito è deputata a varare i piani quinquennali di stampo maoista o qualcosa del genere, ha varato un piano invece pluriennale di sviluppo sul calcio, e in particolare per esempio si dovranno addestrare, si dice, 50 milioni di calciatori da qui al 2030. La Cina vorrà ospitare e vincere un campionato del mondo. In questo momento la nazionale cinese, tanto per intenderci, riesce a battere solo le Maldive e Bhutan nelle qualificazioni a Mosca, sì. 2018. Tra l'altro, se mi permetti, sì. Marco, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che se vanno su internet, sul nostro sito www.radio24.it, il nostro Dario Ricci ha dedicato proprio una puntata a tutto questo. È veramente affascinante perché i cinesi, insomma, anche per la situazione politica che hanno, e probabilmente anche per la condizione economica, come dire, si possono permettere una progettualità un filino più lunga, e quindi hanno un piano calcistico che arriva, mi pare, fino al 2050. Esattamente, ovviamente sperano di vincerlo prima, di ospitarlo e vincerlo prima il mondiale, ma in ogni caso appunto il premier Xi Jinping, credo che si pronunci in questo modo, ha chiamato a raccolta tutte le grandi imprese pubbliche, ma anche quelle private, diciamo chiedendo di dare manforte a questo progetto, e quindi di valorizzare quello che è il brand cinese attraverso sponsorizzazioni, acquisti di club all'estero e soprattutto potenziamento dei club cinesi, che non a caso nel calciomercato di gennaio 2016 hanno speso più di quelli della Premier, quasi 300 milioni, portando via giocatori non solo da mercati, diciamo, un po' più semplici come Brasile o Australia, ma anche dalla stessa Europa, e la stessa Serie A è stata in qualche modo saccheggiata, tant'è che un manager, oltre che allenatore di lungo corso come Arsène Wenger dell'Arsenal, ha lanciato l'allarme, ha detto: attenzione, i cinesi possono saccheggiare anche la Premier. Quindi siamo di fronte a una svolta epocale per quanto riguarda il calcio, e Inter e Milan sono oggetto in questo momento di interessi da parte di cordate cinesi o da gruppi cinesi come il Suning, che vogliono di fatto controllare queste società. Ora, per quanto riguarda il Milan, l'offerta non abbiamo ancora identificato chi l'ha fatta o il consorzio, ma in ogni caso lì l'offerta è molto chiara: si vuole la maggioranza del club per circa 600-700 milioni. Berlusconi ci sta pensando, la Fininvest venderebbe domani mattina, ma è chiaro che è il patron che deve decidere. Per quanto riguarda l'Inter, i cinesi volevano appunto una quota di, diciamo, di minoranza, ma che li permettesse loro di avere voce in capitolo. In particolare volevano la metà della quota di Toir, in modo da avere, diciamo, più o meno un terzo tra loro, Moratti e Toir, e poter in qualche modo anche cambiare, no, l'assetto della maggioranza. Toir si è impuntato da questo punto di vista, non vuole cedere più del 20%, perché questo gli permetterebbe, anche in caso di alleanza tra Suning e Moratti, di avere la maggioranza del club, perché dice di credere ancora in questo progetto. cosa che forse gli interisti in questo momento nella quale gli interisti non credono prima più. Di ripartire sabato c'è stata insomma la visita dei cinesi sia da Piano Gentile che allo stadio, hanno visto la partita e Tohir insomma con grande fervore ha ribadito quelli che sono i suoi progetti di medio lungo termine, ha dichiarato che non vuole lasciare l'Inter, che non è interessato a una squadra in Premier e di conseguenza staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. Quel che è certo è che si deve arrivare presto a una soluzione per impostare la prossima stagione sia sulla sponda nerazzurra che su quella rossonera. E secondo te, Marco, per chiudere, c'è un'attenzione alle milanesi per una questione contingente, per così dire, per cui per certi aspetti sono contendibili o comunque sono favorevoli alla cessione di quote, o c'è un'attenzione alle milanesi per da una parte il marchio e dall'altra parte la stessa Milano magari? Guarda, io ti direi per l'insieme di questi fattori. Milano è un brand molto noto e forte anche sul mercato cinese, coniugato sia sul versante Milan che su quello Inter, e soprattutto abbiamo di fronte due proprietà come dire, che non possono più reggere la sfida economica che oggi il calcio richiede, hanno bisogno di partner, e quindi diciamo, questi due elementi si stanno convergendo, ecco, e quindi vediamo insomma quello che succede, ma appunto il comunicato di oggi è molto significativo sulla serietà di queste trattative. Ti ringrazio, grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore per averci accompagnato a capire un po' di più che cosa sta succedendo appunto in particolare sull'Inter e sul Milan. Come vedete però evidentemente i movimenti ci sono e sono interessanti, anche l'aspetto di quello che sta facendo la Cina da questo lato è un punto interessante. Grazie dunque a Marco Bellinazzo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, come si diceva, in una giornata particolarmente importante da questo punto di vista. Avete sentito quanti aggiornamenti i colleghi di Strada in Diretta avevano prima, perché insomma è forte il rientro e chissà quanti di voi sono in macchina. E poi dopo parliamo di banche. Focus Economia. Sui temi che abbiamo affrontato nella prima parte della trasmissione, prima di andare a parlare di banche, appunto, avevo lasciato indietro qualche sms, qualche ascoltatore, per esempio Cesare da Vicenza, che dice: ma così le merci che vengono dall'Austria, parliamo del Brennero, evidentemente anche per l'Austria costerà di più, quindi potrebbe essere un problema anche per gli austriaci. Vero. Dall'altra parte è vero che loro hanno tutta l'Europa dall'altra parte, mentre invece per noi è una, per banali questioni geografiche, è una limitazione molto più importante. Dall'altra parte, a chi continua a dire la protezione dei confini, allora ci sono dei trattati internazionali e c'è il trattato di Schengen, e questo trattato è in vigore. Come spiegava bene Adriana Cerretelli prima, quello che sta facendo l'Austria adesso e che sta progettando è una chiusura preventiva del confine, nel senso che i numeri fino ad ora degli arrivi in Italia, detta molto brutalmente, parlando di immigrati, sono 27.000 persone al 25 aprile del 2014, 25.200 persone al 25 aprile del 2015, 25.600 persone al 25 aprile del 2016. Quindi i numeri sono sostanzialmente gli stessi, cioè il segnale, per così dire, di invasione al momento non c'è. E l'Austria, sulla base di una preoccupazione di questo tipo, crea un blocco al Brennero. E questo è preoccupante, a chi lo chiede, anche per gli imprenditori austriaci. Però se la politica va in quella direzione, sì, così dire, si devono adattare, con il vantaggio di avere tutto un mercato dall'altra parte enorme. A differenza nostra, che se ci chiudono il Brennero è un bel problema. Veniamo alle banche dunque, veniamo alle cose più strettamente nostre. Ancora la Popolare di Vicenza, si dovrebbe chiudere il 28 aprile, lo sapete, il collocamento delle nuove azioni della Popolare di Vicenza, 0,1 euro per azione, quasi certamente la forchetta è 0,1, tra 0,1 e 3, ma insomma con il Fondo Atlante che dice noi le pigliamo a 0,1 sarà 0,1. Gente che ce l'aveva in carico a 63 euro che si ritrova l'investimento praticamente azzerato sostanzialmente. Piccoli risparmiatori che perdono, l'abbiamo già raccontata la settimana scorsa, la storia di una signora che ha perso 400.000 euro, persone che perdono tutto, e poi anche investitori un po' più corposi e che comunque ci rimettono parecchio. E poi prestiti arrivati, come dire, in maniera un po' sospetta, Fabio Pavesi, al Sole 24 Ore, no? Beh sì, più che sospetta, troppo generosi, perché il cavaliere Zonin, presidente della banca per oltre 20 anni e quindi, come dire, il dominus della banca, ad agosto del 2015, tre mesi prima che si dimettesse, poi indagato dalla procura, aveva ricevuto prestiti per se stesso e società a lui collegate, la sua casa vinicola, tenute agricole, per la bellezza di 48 milioni di euro, deliberati nella giornata del 6 agosto del 2015, in piena estate. Il problema è che quello non era un episodio isolato, cioè ogni anno il cavaliere Zonin riceveva dai 48 ai 50 milioni di euro di finanziamenti dalla sua stessa banca. In tre anni sono ammontati a 150 milioni di euro. Allora, e non c'è solo lui. Metà del CDA. Su questo ti volevo, perché poi in realtà era una cosa abbastanza diffusa. Insomma. Sì, perché poi non c'è solo Zonin, noi abbiamo pubblicato l'elenco dei beneficiari. Tale Giovanni Fantoni, ex CDA, anche lui sui 40 milioni, altri due indagati, Giovanna Dossena e Giuseppe Zigliotto sui 30 milioni. Allora, alla fine i vertici della banca prendevano nel 2013 e 2014 circa 230 milioni di prestiti. Allora, in sé il problema non è, come dire, né la quantità, il problema è capire se veniva applicato quantomeno un tasso di mercato. E lì purtroppo, mentre tutte queste informazioni sono scritte nel prospetto informativo, quindi finalmente sono rese pubbliche, non è reso pubblico il tasso di finanziamento. Cioè vorrei sapere se quel prestito era erogato a un tasso che si apre alla clientela o addirittura a un tasso di favore. Per cui c'è l'ammontare importante, c'è un problema di opportunità. Cioè tu non puoi essere contemporaneamente capo di una banca e grande debitore della tua stessa banca, perché si crea un problema di conflitto di interessi, insomma, sì, pesante. Tra l'altro Fabio, un ascoltatore ci scrive, evidentemente ci ascolta da pochissimo tempo, dice perché non scoperchiate il vaso di Pandora di Banca Etruria? Veniamo là, evidentemente ci ascolta da poco, perché è un problema che si propose anche quando parlammo di Etruria, questo certo. Qua, no? Allora, non per difendere i giornali, ma insomma il Sole e la banca dati a disposizione ha cominciato a pubblicare i primi articoli sulla Vicenza, non solo io, altri colleghi, almeno da un anno a questa parte, perché quel valore di 62 euro, se tu la guardavi sui fondamentali economici, non c'entrava nulla con il resto del sistema bancario. E noi abbiamo scritto più di un articolo riferendo che se la banca andava a quotarsi sarebbe stato un disastro. Così è avvenuto, quindi nemo profeto in patria. Spiace, perché in effetti questo lavoro noi l'abbiamo fatto. Non è vero che i giornali si accorgono solo quando i buoi sono scappati. In questo caso su Vicenza Etruria, anche lì i primi articoli sono addirittura di due anni fa, perché ricordo che scoprimo come Sole che Etruria aveva comprato 7 miliardi e mezzo di BTP su un bilancio di 14. C'è una banca che a metà del suo bilancio fatto di BTP e sta in Toscana. Uno si chiede, ma fa la banca che regola il credito o fa la Goldman Sachs di Arezzo? C'è un articolo del Sole di un anno e mezzo fa che rilevava questa anomalia. Poi ovviamente arriva la Banca d'Italia, le autorità preposte, però non si può dire che i giornali non abbiano mai scoperchiato il vaso di Pandora. Questo è ingeneroso. Sì, direi che soprattutto su questi temi ci siamo stati molto addosso, anche, ripeto, a Radio 24. Dal punto di vista appunto del prezzo, mi sembra che, visto che si apre la settimana sostanzialmente che porterà alla chiusura di questa offerta, mi sembra che il prezzo alla fine sarà quello sostanzialmente, sì, Fabio. Di fatto il prezzo è quello, perché il problema qual è? È che Unicredito si era impegnata a garantire l'inoptato, vuol dire che se tu pensi che la gente non sottoscriverà più, e lì i vicentini non credo abbiano molta voglia di sottoscrivere nuove azioni a un prezzo così risibile, l'Unicredito sarebbe intervenuta. Poi Unicredito ha detto, ma insomma forse quel compito per una sola banca è impegnativo, nasce finalmente questo fondo Atlante, che in realtà è un fondo di mutuo soccorso, hanno aderito praticamente quasi tutti, e serve appunto a evitare, e questo è importante dirlo, situazioni di crisi, perché attenzione, il passato di Vicenza l'abbiamo raccontato, è un passato drammatico e doloroso, perché c'è gente, i miliardi bruciati sono 6,2 nell'arco di soliti 12 mesi, cioè questo va ricordato, su 120.000 soci la distruzione di valore è uguale a 6 miliardi su un territorio di Vicenza più Prato, perché poi Vicenza l'ha comprato anche altrove, quindi un falò drammatico, un crack finanziario alla Parmalat. Però poi c'è la nuova Vicenza, nel senso che se lì l'aumento di capitale non va in porto, la banca è fallita, e questo va detto a chiare lettere. E quindi il fondo Atlante, che è un fondo compartecipato, di fatto diventerà il primo azionista della banca. Quindi la banca di Vicenza sarà governata dalle altre banche italiane. Poi si vedrà se verrà poi ceduta a qualcuno. Però senza quel miliardo e mezzo di capitale la banca è fuori controllo. Questo sì, purtroppo è un fatto, ed è l'eredità del disastro di una gestione ventennale di Zonin, che oggi è indagato, che si è dimesso molto tardi e che per anni è andato avanti a dire che la sua banca era solida, che il territorio era garantito, e è arrivato a dirlo fino al 2015. Lo trovo abbastanza grottesco. Allora, grazie a Fabio Pavesi del Sole 24 Ore. Per chiudere, prima di lasciare la linea a Giuseppe Cruciani con la Zanzara, vi ricordo poi la notizia di oggi, l'abbiamo data in chiusura della prima parte, che oggi c'è stato un giudizio di Moody's abbastanza duro sull'investimento da 1 miliardo di euro di Unicredit intesa nel fondo Atlante, e il mercato, sul mercato l'hanno scontato, Unicredit meno 5,3%, intesa meno 2,4%. Noi ci risentiamo domani alle 13 con Effetto Giorno. Radio 24. La passione si sente.